Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. 8:21. Questo 21 giugno, il solstizio, il giorno più lungo. Giusto, l'estate. Da domani si accorciano le giornate. Vabbè. È il segno, non dimenticate che tutti dobbiamo morire. Insomma. Dai. E oggi è un giorno un po' così per me, devi capirlo, perché sì, è un grande santo, San Luigi Gonzaga, che rinuncia al marchesato per diventare gesuita e poi muore per assistere gli appestati, tutto quello che vuoi. Sì, però vedi, è un tono... oggi è un giorno, per esempio, no, non è mica un caso che nel 1970 oggi l'Italia e il Messico perdeva 4-1 contro il Brasile. Senso, e non è un caso, perché ci sono giorni in cui il peso degli avvenimenti della storia è successo? Ma oggi è un giorno, sono 21 giugno, a me non riesce mai ad andare giù, perché devi sapere che a un certo punto poi la colpa è sempre, dice, perché eri repubblicano? Perché la colpa è sempre di Savoia. Nel 1774, pensa un po', ma non c'aveva niente di meglio da fare quel giorno. Vittorio Amedeo III, sai cosa fa? Cosa questo fa? Signore 243 anni fa, oggi, e infatti viene celebrata, è la vera festa, non San Luigi Gonzaga, è la vera festa, ecco. Di che cosa? Quel giorno il sovrano dei Savoia istituisce un corpo militare. Ecco, e quel corpo militare oggi c'è ancora, è la Guardia di Finanza. Fosca. No, salutiamo tutti i militari della Guardia di Finanza che ogni giorno fanno un lavoro straordinario, fondativo. E infatti oggi mi dà un po' di buon umore il comandante generale intervistato dal Messaggero, che dice: la regola d'oro per combattere l'evasione è avere regole chiare e tributarie. Il nostro oggi è un compleanno originale. Beh, il compleanno il tuo, scusa. A tutte le giacche grigie della Guardia di Finanza, corpo di grande qualità tecnica. Sì, dopo questo augurio, certo. Tenti. Io sono contrito perché so che loro lo sanno che fanno molto piangere. Ecco, per questo. Non è già partito evasore. No, era ironico. Vabbè, c'è anche uno che dice: oggi è il mio compleanno, Oscar. Ma meno male, ci sono belle cose. Non è il compleanno di Deborah Rosciani oggi da festeggiare. No, ci sono, quello è il mese di compleanno. Il mese di compleanno è finito. È finito oggi. È il compleanno di Michel Platini. Pensa un po'. C'è già chi vuole scaricare la risata tua per metterla come suoneria del cellulare, ma insomma il podcast è lì a disposizione. È lì a disposizione. Non subito, ecco, comunque, aspettate. Ma era una maniera un po' originale per ricordare ai nostri amici finanzieri. Siate giusti, ma non fateci male, ecco, questo è il punto. Caro Oscar, dobbiamo ricordare anche, ce lo chiede Mauro, potete dire che Lodi è campione d'Italia di hockey a rotelle, visto che non lo dice nessuno. Ma ragazzi, qua facciamo la radio di... di notizie, giustamente. Se avete anche un pezzo da dedicare alla vostra amata, fate pure. C'è un famoso detto, no? Conosci? Lodi e Godi. Ah, l'hai mai sentito? Vabbè, e quindi insomma, vabbè, abbiamo esaurito i compleanni racchiudendoli tutti in uno. Racchiudendoli tutti in uno, perché già mi varrà. Ma c'è un rapporto lungo storico tra me e quel corpo, quindi per così dire. Va bene. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero per intervenire. Possono intervenire anche esponenti della Guardia di Finanza se vogliono. Sì, muniti di regolare mandato del giudice. Meglio. Muniti di regolare mandato. Allora, dal punto di vista politico, Oscar, io ho notato un po' le solite cose noiose. Allora, la vicenda Consip sono state come due pugili che hanno fatto finta un po' di eliminato l'unico manager non indagato della Consip perché accusa Lotti, l'hanno eliminato, è la regola del potere, questo qua, hanno eliminato lui. Il capro espiatorio, come ricordavi nella rassegna stampa. È così, l'amministratore delegato di Consip. Poi c'è Virginia Raggi che forse va a processo e quindi si riapre il dibattito, adesso si deve dimettere, non si deve. L'unica cosa effettivamente certa è che come al solito non c'è coerenza, no? Già. Cioè se fosse stato del PD, quelli del Movimento 5 Stelle avrebbero detto se tocca dimettiti. A te, no. Se tocca a te, no. Questa è la regola anche qui. Sai come si chiamano? La raccolta differenziata, come dicevo. Non la fanno nell'immondizia, ma quando si tratta di distinguere in maniera differenziata l'applicazione dei codici morali rispetto a quelli degli altri, è inutile che vi arrabbiate adesso, perché i fatti parlano da soli, non si tratta solo di notarlo, io non sto né alzando il tono, però di fatto è esattamente come dice Alessandro. Quindi, le questioni politiche sono queste, cioè il caso Consip. A me fa morire dalle risate Gentiloni, che di fronte al fatto che i bersaniani adesso, liberi da disciplina di partito, sono usciti e picchiano in testa il sistema di potere di Renzi, e Gentiloni dice vogliono consegnarci a Silvio. No, veramente, se volete andare con Silvio, fatti vostri. No, soprattutto non è che Gentiloni per reazione. Pare molto arrabbiato, perché le accuse più dure ieri non sono venute dal Movimento 5 Stelle, ma da Miguel Gotor, che ha parlato esplicitamente di massoneria, sì, con vaghi riferimenti a compassi e triangoli. Quello che scrive Ferruccio e Bortoli però fino all'inizio. Sì, ma non capisco perché siano arrabbiati. Forse considerano quella parte politica, sì è vero, fuori dal PD, ma in qualche modo un po' affine. E comunque una parte politica, cioè, che dice sosteniamo il fatto che il non si deve Gentiloni pronunciare alcun riferimento a una vicenda in cui anche le intercettazioni, naturalmente io conosco il fatto che si sono finite sul giornale per l'ennesima volta, del padre questa volta della Boschi, dice ne parlerò con mia figlia, mentre la ministra ha detto che non aveva mai parlato col padre della banca. Tanto per dirne una, no? Anche qui, se si fosse trattato di Berlusconi e di sua figlia, pensi che non ci fosse lo scandalo, non ci sarebbe lo scandalo alla raccolta di firme. E o stare Berlusconi che torna in auge, oggi va a Porta a Porta, sta facendo televisione, il giro delle TV, pensa, sta facendo il giro Macron delle... Macron conquista la Francia, noi conquistiamo sui giornali. Magari mostrerà l'albero delle Berlusconi pere. Berlusconi in televisione, l'albero delle pere. Magari porterà l'albero delle pere, l'albero delle mele. Sì, non lo so. L'albero delle pere. Va bene. Allora, però, vogliamo parlare un po' e tornare come ha fatto Repubblica ieri, ecco, e come abbiamo fatto noi ogni tanto, facciamo questo punto della situazione sul terremoto, perché di recente sono state varie notizie sul terremoto. Intanto la notizia qualche giorno fa della tassa di successione sugli immobili, che è rimasta e che ora il commissario Errani, anche oggi al Corriere della Sera, ribadisce la toglieremo, e facendo notare che peraltro all'Aquila, al contrario di quanto ha detto Berlusconi, è stata tolta dopo un anno e mezzo, non subito. E poi c'è questa ricostruzione che davvero ieri Repubblica bilancio complessivo 8% casette consegnate, è una ricostruzione 8% disastrosa. Dei milioni di tonnellate di detriti rimossi, il resto sta ancora lì. 11 passaggi per avere una casetta, delle cose da... No, il problema è che oggi Vasco Errani in questa intervista dice le polemiche le ho messe in conto e per ricostruire c'è bisogno di tempo, e chi aveva detto si può fare in 7 mesi dice una cosa che non esiste. Ma non l'abbiamo detto noi. Appunto, cioè. Non l'abbiamo detto noi, no, questo io, è un po' il punto. Io lo scrivo da mesi e mesi. Da mesi e mesi dissi, guardate, impariamo la lezione questa volta. Non si può uscire, perché l'articolo di Repubblica ieri c'entrava una questione, no? Cioè noi abbiamo imparato i danni del sistema delle deroghe assolute, San Bertolaso, e siamo ricaduti nella burocrazia. Cioè la domanda era, diamo più poteri ai sindaci, un'unica autorità nazionale, o riproduciamo la moltiplicazione dei poteri? Risposta, no, la moltiplicazione dei poteri. Quindi sindaci senza grandi poteri decisionali, presidenti di regioni, giunte, poi c'è la protezione civile, poi c'è naturalmente Cantone che deve fare il suo, ci sono i ministri, il governo, e poi si riscende giù, così sì. Non se ne viene a capo. Ma infatti su questa burocrazia sempre Errani dice per ricostruire bisogna farlo nella legalità, che non è burocrazia. Ma la legalità non è il caos di 11 passaggi per una casetta. Se tu non dai ai sindaci le deroghe per l'assunzione del personale a tempo straordinario e gli dici valgono le graduatorie vigenti, è come dire sindaco cavatela tu e auguri. È così. Con noi c'è il sindaco di Visso, Macerata, Giuliano Pazzaglini. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, lei ci conferma, l'ultima volta che ci siamo sentiti aveva detto che erano arrivate forse zero casette. A che punto siamo? A Visso, ovviamente. Facile aggiornare il saldo perché siamo ancora a zero. Siamo a zero. Però se ricorda avevo anche spiegato perché sì. Erano zero e temevo sarebbero rimaste zero. E in parte l'avete accennato ora. Perché se la priorità è la legalità e non la sofferenza delle persone, è evidente che ci preoccupiamo di un passaggio, di un atto amministrativo ineccepibile sul piano formale, e poi che importa se ci vogliono mesi magari per approvare un'area SAE o per iniziare a realizzare le opere di sedime. Perché quello che conta è che l'atto sia blindato in ogni sua piccolissima parte. Ah, guardi, noi abbiamo fatto varie puntate, ti ricordi Oscar con Alfonso Celotto, ecco. No? Il manager della pubblica amministrazione, lo voglio chiamare così per non dire l'esperto della burocrazia, che dice l'importante è che in Italia sia fatto tutto a norma di legge, sì. No? Sì. Questo è, a norma di legge ci spiega qual è la situazione a Visso, che poi è uno dei comuni colpiti, quindi si può estendere anche agli altri comuni? Allora, purtroppo, come dicevo prima, il saldo è estremamente negativo, perché potrei dire zero stalle, ripeto zero casette, evidenzio che a livello di macerie siamo molto indietro, e tutto questo appunto perché anziché preoccuparsi di essere efficaci su un piano sostanziale, ci si preoccupa solo esclusivamente di esserlo sul piano formale. Io ho criticato più volte il fatto che in una situazione come questa paradossalmente non ho avuto nemmeno l'autorità di convocare tutte le forze operanti sul mio territorio per coordinarle al fine appunto di creare efficienza. Fortuna che da noi ha prevalso il buon senso e quindi hanno risposto ad un invito dopo il primo giorno, quando ho visto i Vigili del Fuoco che montavano una recinzione e l'esercito che gliela demoliva un'ora dopo perché doveva passare con i container. Ho azzardato un invito a tutte le forze dicendo che seppur tutti operanti con una divisa diversa avremmo dovuto comunque comportarci come una squadra. Il buon senso, come dicevo prima, ha prevalso. Tutte le sere facevamo quel briefing e da lì siamo riusciti appunto a creare efficienza. Ma io invitavo i partecipanti perché da quella che in teoria dovrebbe essere la massima autorità di un territorio non avevo nemmeno la possibilità di convocarli al fine appunto di rendere le operazioni più efficaci. È evidente che così non può funzionare. Ho ipotizzato che il Parlamento adotti una legge quadro che fissi dei paletti in cui comunque si stabiliscano delle competenze, poi sarebbe sufficiente che a seconda della calamità che si è verificata il Consiglio regionale o la Giunta regionale adotti l'atto successivo, e quindi legge quadro che fissa le reciproche competenze, e poi che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o di una frana, il Consiglio regionale o la Giunta regionale adottano l'atto necessario per poter risolvere quel problema. Solo così si può creare efficienza, perché altrimenti ogni volta bisogna legiferare e quindi arriviamo a un montante impressionante di atti tra ordinanze, decreti e tutto il resto, che si fa una confusione che potete facilmente immaginare, e noi siamo alla mercé di tutto. No, questo è Oscar, cioè la mancanza di deleghe, un po' di potere. Oggi Bertolaso fa un'intervista al giornale e dice, ovviamente anche lui criticato, no? Perché poi ci sono stati i processi, eccetera. Però dice: in Italia non si vuole accettare che ci sia una singola persona che decide. Non si accetta che qualcuno possa impartire direttive e ordini. Questo era, secondo Bertolaso, il famoso sistema Bertolaso. Sindaco, manca questo? Cioè, vorreste, come dire, ci spieghi qual è la soluzione glielo pratica? Spiego subito. Se io avessi potuto fare da solo le SAE senza troppe formalità, le prime cassette le avrei avute già pronte, perché avevo a gennaio individuato le aree e quantificato il fabbisogno. Le aree mi sono state bocciate tutte, per farle capire l'assurdità di quello che è successo. Ma bocciate in nome di che cosa? In nome del fatto che lei non è in grado di decidere? In una di queste c'era una lottizzazione privata in corso, quindi per far costruire un privato per qualche secolo era tutto a posto, per fare le casette per qualche anno paradossalmente no, perché il tecnico istruttore non si voleva prendere la responsabilità di dire che l'area andava bene, perché qui da noi le responsabilità non se le prende nessuno, allora datele a me, che vedevo negli occhi i miei 85 anni che dormivano in macchina, e quella responsabilità me la sarei presa perché io avrei autorizzato la realizzazione su un'area su cui avevo fatto degli interventi tre pochi anni prima, che è stata bocciata perché secondo il tecnico istruttore quegli interventi si chiamavano di ripristino e a nulla è valso aver realizzato una diga che di fatto rendesse impossibile una nuova alluvione lì, perché il progetto si chiamava di ripristino, cosa che era per il 70%, perché le nuove realizzazioni incidevano per il 30%, e quindi il tecnico correttamente l'ha chiamato di ripristino, area bocciata per rischio idrogeologico. Lì ci sarebbero state già le prime case se avessi potuto fare da solo. Questo è un po' il problema di una ricostruzione ferma, Oscar. Cioè, il 92%... Sì, però il problema è anche in questo caso, scusami, almeno questa volta c'è stata una copia, proprio perché era avvenuto il superamento per via delle indagini e procure del sistema Bertolaso, fin dall'inizio ai governi si è detto andate a mettere la testa su come nei paesi colpiti storicamente da grandi sismi di volta in volta ci sono sessioni istituzionali per capire la lezione da imparare e le semplificazioni procedurali da assumere. E invece queste cose poi restano tutte senza esito, perché la sovrapposizione di livelli è la classica manifestazione che in Italia non si è fatto così. Io oggi sul messaggero l'ho scritto, caro governo, non è per fare un soviet, ma forse se vi prendete il Presidente del Consiglio, il commissario, i ministri competenti, la briga di fare una sessione di lavoro di un giorno, due giorni con tutti i 151 sindaci per capire qual è la lista di semplificazioni procedurali di nuovi poteri che vi chiedono, in assenza dei quali rimarremo in un ritardo storico, meglio farla piuttosto che non voler ammettere che c'è una cosa che non funziona. Ecco, io la penso così. No, ma anche perché oggi a leggere, non so se lei sindaco ha letto l'intervista di Vasco Errani oggi sul Corriere, dice anche i fondi ci sono, esatto. 3 miliardi e 400 milioni per la ricostruzione privata già disponibili, 1 miliardo per quella pubblica, 110 milioni per 38 nuove scuole di alta qualità energetica, e allora, si possono già iniziare i lavori. Insomma, urgenza per 1 milione di euro e siamo riusciti a pagarne solo 200.000 perché non c'è di appunto danno. Però volevo evidenziare che quello che è stato appena detto secondo me è ineccepibile, cioè invitare noi a Roma per chiederci che cosa servirebbe significherebbe creare efficienza. Io non sono andato alla parata del 2 giugno perché mi sembrava veramente assurdo mettere la faccia su un'iniziativa che voleva riportare l'attenzione sul terremoto nel modo più sbagliato in assoluto, così come rifiutare l'invito della Presidente della Camera a venire a Roma perché non poter evidenziare quali erano i nostri problemi secondo me sarebbe stata una scorrettezza enorme nei confronti dei miei cittadini. Quindi non sono andato volutamente, come non sono andato alla visita del Presidente Mattarella per lo stesso motivo, ma se mi invitassero a spiegare che cosa non ha funzionato andrei subito e ci vado con la macchina mia, tra l'altro, perché il mio comune non ce l'ha una macchina blu. Ma tra l'altro, sindaco, ci vuole spiegare, lei che sta lì a Visso, in provincia di Macerata, cioè i cittadini se la prendono anche un po' con lei? In fondo lei è il primo cittadino, è quello che dovrebbe dare tutte le risposte. Purtroppo nella sofferenza si cercano sempre capri espiatori e quindi è inevitabile che per qualcuno, io lo sono già diventato e per altri ancora lo diventerò, ma fa parte del gioco. Sapevo quando mi sono messo in discussione che avrei dovuto accettare anche questo, lo accetto perché avviene da persone che soffrono questa eventuale critica, quindi fa parte delle regole del gioco e sono disposto ad accettarle. Quello che non riesco però ad accettare è il fatto che, da secondo buonsenso, noi delle indicazioni operative le avevamo già date sei mesi fa, otto mesi fa. Io ricordo un incontro con Renzi ad Arquata, avevo fatto delle richieste precise sulla scuola, sui trasferimenti, sul personale, non ne ha soddisfatta una. A ottobre del 2016 gliel'avevo chiesta, siccome ho avuto la sfortuna di gestire anche il vecchio terremoto, un minimo d'esperienza ce l'avevo ed è stato dilapidato un patrimonio di esperienza e professionalità, e non mi riferisco a me adesso ma ai nostri uffici tecnici che avevano gestito una delle migliori ricostruzioni d'Italia, impostando un modello completamente diverso che nei fatti si sta dimostrando di gran lunga peggiore di quello che ci hanno costretto ad abbandonare. E tutto questo gliel'avevo personalmente detto ad ottobre, un incontro ad Arquata, eravamo almeno 20 sindaci, evidenziando appunto quello che secondo me avremmo dovuto fare. Ho parlato di casette, ho parlato di stalle, ho parlato di personale, ho parlato di scuola, ho parlato di soldi. Nulla di questo è arrivato. Siete almeno soddisfatti, anche se in ritardo, del fatto che le polemiche, anche le campagne giornalistiche, hanno portato a dire verrà cancellata la tassa di successione sugli immobili? Allora, da noi non ci sono state né vittime né feriti, quindi non era un problema che mi toccava. Io sono comunque contento quando i problemi si risolvano. Personalmente sono in questo momento molto interessato al fatto che purtroppo mancano soluzioni per i comuni distrutti, perché 140 comuni nel cratere secondo me non è stata una scelta oculata, perché si è arrivati ad adottare dei provvedimenti che mediamente potrebbero anche andare bene, ma agli estremi bene, dove noi siamo manca molto. Faccio solo un esempio perché mi sta veramente a cuore: per le attività produttive mancano soluzioni, perché le uniche due che ci sono, le ordinanze 9 e l'ordinanza 408 appunto di Errani e Curcio, gestiscono l'emergenza, sono solo esclusivamente emergenziali, ma chi come me dovrà stare in emergenza dai 10 a 15 anni ha bisogno di soluzioni strutturali. Ed è quello che ho chiesto, tra l'altro. Dovrebbe esserci domani un incontro a Roma tra Curcio, Errani e Ceriscioli, il nostro presidente. Spero che capiscano che le mie richieste non sono motivate da chissà quale egoismo o bulimia per ottenere chissà che cosa, ma solo e semplicemente per poter far sopravvivere i miei operatori, perché se non dovessimo continuare ad avere una autosufficienza economica, tutto il resto diventerebbe inutile, sarebbe una ricostruzione fine a se stessa e le persone se ne dovrebbero andare. Quindi allora, quello che chiedo adesso, se magari in questo potreste darmi una mano, è far capire che ci sono comuni distrutti, alcuni danneggiati, altri pochi come il mio distrutti. Questi comuni distrutti hanno bisogno di misure specifiche, a partire dalle soluzioni per l'attività produttiva, altrimenti è inutile che spendiamo milioni di euro per ricostruire, perché rimarrebbero tutte cattedrali al deserto. Di che cosa vive la gente effettivamente? Ma infatti la protrazione dei tempi burocratici, questo significa che non si ricompongono le comunità e la desertificazione economica rende ancora più impossibile poi che le comunità si riformi. Noi ringraziamo il sindaco di Visso Macerata, Giuliano Pazzaglini, torneremo ovviamente a bracci, auguri, sostegni, ogni tanto speriamo qualcuno vi ascolti, a capire la situazione. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo di tanti temi, le vostre telefonate sulle tematiche. Una giacca grigia, l'ho vista. Era un collega. No, mio Dio. Dai. State ascoltando un programma offerto da Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Allora, siamo qui alle 8:47 minuti, caro Oscar. Ma vogliamo farlo un augurio, un complimento? A chi? Guarda già con gli auguri di oggi. Della Rayer Basket, no, dico sinceramente, di Venezia, dopo 74 anni. Io sono felicissimo, il basket è lo sport che amo di più, ma insomma sono felice. Mi dispiace anche per Trento, perché anche Trento è stata una bella, è stata una bella. Bisognava dare lo scudetto a tutte e due, in questo caso. Anche sono d'accordo con te. Però è stato un bel affrontarsi questo 4-2, devo dire la verità. Sì. No, complimenti davvero. Ma tu del sindaco di Caltagirone, ed è il sindaco, dell'assessore di Caltagirone, no, che hai detto? L'assessore che è stato pizzicato dalle telecamere ad abbandonare quattro cuccioli, dicendo, poi tra l'altro si è difeso dicendo, ma no, io ma semmai... Per salvarli. Perché... Li volevo salvare, volevo che qualcuno del quartiere... Che abita lì è un animalista, quindi li ho messi lì. Ma perché, devi dire, ma perché tutti dicono che è un assessore alla cultura, ma quello è anche assessore ai servizi cimiteriali, quindi stava svolgendo la sua funzione di seppellitore. Purtroppo sì, è veramente, veramente triste. Poi pizzicato con la telecamera, che i vigili che risalgono dalla targa. Però anche pizzicato lui dice che li stava salvando. Io trovo che i polizi sono fantastici, fantastici. Forse chiunque insomma messo così alla gogna avrebbe tentato delle stranissime autodifese per io vergogna. Io penso che chi, no? Ci sono anche alcuni che messi alla gogna invece chiedono scusa e ammettono questo. Ammettono l'errore. Comego, scusa comunque. Se mi permetto. Comego. Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Non mi è piaciuto e non mi piace normalmente il panegirico di Giannino sullo stato ladro e sulle tasse da pagare. Non è che io sia felice di pagare le tasse, ne pago tante. Non lo sento mai però fare panegirici sulla alta evasione fiscale che in questo paese la fa da padrona. Credetemi, io con modelli unici ci lavoro, perché me ne passano a centinaia tutti i giorni sotto le mani. Questo è un paese illegale, dove chi può non le paga. E non perché sono alte, come sono realmente, ma perché anche se fossero il 10% non le paga. Manca il senso civico. caro Giannino, mi piacerebbe tanto sentirti qualche volta. E io non sono d'accordo, non posso dirmi d'accordo, non sono d'accordo, non sono minimamente d'accordo e non ne ho mai fatto mistero. Quindi non mi piego a questa logica, non mi piego perché lo considero infondato il ragionamento. Il ragionamento per il quale lo Stato vi ha messo in testa incessantemente che il problema non è l'alta imposizione ed è altissima, ci batte solo la Francia, è altissima, e non è la bassa qualità di quello che riceviamo in cambio, e qui anche non mi faccia dire tra corruzioni, inchieste, stime di rapporti comparati su quanta corruzione c'è nella sanità, nell'invalidità e così via, cioè battiamo tutti praticamente. Allora, il dirvi che questo non deve costituire vostra preoccupazione perché il problema siano gli italiani è un classico argomento di guerra psicologica. E vince lo Stato, perché ne siete convinti, ve ne siete convinti. Dite, cosa conta quanto dobbiamo pagare e che non otteniamo in cambio quello a cui avremo diritto? Quello che conta è che il furbo, e regolarmente dite, il furbo è naturalmente chi mi sta a fianco, perché gli italiani dicono sempre che a evadere sono gli altri. Allora, il punto non è questo. C'è una correlazione tra livelli di evasione nei paesi che sono di recente sviluppo e non di secolare, plurisecolare civiltà, e il livello dell'economia informale? C'è, basta consultare la letteratura economica in materia, non è che lo dice Giannino. Quindi il problema non è la colpa degli italiani, il problema è la pessima ed elevatissima pressione fiscale e pretesa tributaria del nostro paese. Questo è il punto fondamentale. Però io ripeto, rispetto il fatto di essere minoritario e continuerò fino all'ultimo giorno della mia vita però su questo a pensarla così. Potete pensare che sia difesa dell'evasione, ma perché vi hanno corrotto l'anima. Tutto sommato è questo dal mio punto di vista. E come lei esprime un giudizio duro su di me, accetti l'idea che però io ho un giudizio di questa guerra pluridecennale condotta dallo Stato italiano per non dover giustificare il modo in cui distrugge le finanze degli italiani, io ho un'idea negativa. Ne faccio l'esempio di oggi, poi mi taccio. Tutti i giornali italiani oggi sono alla fine, dopo 3 anni di insistenza, tutti i giornali allargano le braccia e sono costretti a riprodurre almeno in una, se non due pagine a testa, le parole dell'ex commissario alla Spending Review, Yoram Gutged, che ha ridotto la spesa pubblica, perché si parla di nominare la Consip, come sai, al posto di Marroni. E quindi io l'ho già un po' per fatta, per così dire, alcuni giornali l'hanno già per fatta, vedremo. Ma detto questo, la Spending Review nasceva per identificare le spese da diminuire, per questo abbiamo alternato Bondi, Cottarelli, eccetera. E questo ottiene da tutti i giornali che dicano che 30 miliardi di Spending Review. Ecco, la spesa corrente anche nel 2016 sul 2015 dai conti del governo è diminuita assai di quanto? Di 40 milioni. Allora, hanno identificato poste di spesa che hanno trasformato in altre poste di spesa. Quindi il neolinguaggio, la neolingua orwelliana di cui vive lo Stato sulla spesa pubblica e le imposte, alla fine ottiene questo, che le persone per bene come lei dicano: Giannino, sei un cialtrone perché il problema è l'evasione fiscale. E io dico: no, è lo Stato che vi fotte, e saremo sempre lì a parlarne. Comunque, ma con rispetto. C'è Eugenia che ci chiama da Pescara. Buongiorno Eugenia. Sì, salve, buongiorno. Tanto complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Grazie. Allora, io sì, volevo intervenire perché non sono riuscita a non farlo, in quanto io sono dottore di ricerca proprio su questo, sul tema della legislazione d'emergenza delle pubbliche calamità. E ha dottorato tra l'altro a Macerata ad aprile, quindi proprio c'entra insomma col tema terremoto. Esatto. Io l'ho fatto in storia del diritto, quindi mi sono occupata della legislazione d'emergenza dall'Unità d'Italia fino al fascismo, quindi praticamente la legge del 1926 che poi è prodromica alla legge sulla protezione civile che ci sarà molto tempo dopo, ma insomma diciamo richiama quella legge lì. Io, la mia era una semplice riflessione, cioè più che altro nasceva dopo aver ascoltato il sindaco la questione dell'impossibilità insomma di agire su questo in casi di questo tipo. A me sconvolge il fatto che, voglio dire, come l'ho fatto io, insomma se ne sono occupati tanti altri e tanti politici dovrebbero sapere che storicamente noi, a parte che abbiamo avuto una serie di calamità infinite insomma a partire dall'Unità d'Italia, ma il tema è sempre stato lo stesso, cioè la capacità di agire del sindaco, se dovesse agire come ufficiale di governo, come capo dell'amministrazione o del prefetto, eccetera. Non siamo mai riusciti, nonostante i fiumi di dottrina, giurisprudenza, legge, a capire come dovessero intervenire questi soggetti. E nonostante No, ma è assurdo il fatto che abbiamo avuto tante esperienze che alla fine hanno portato alla istituzione di commissari straordinari. Messina è stato il caso eclatante, ma ne abbiamo avuti tanti prima. Hanno sbagliato in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Però abbiamo la avremmo avuto la possibilità di studiare e capire dove queste sì, erano sbagliate. Il punto, esatto, il punto è la mancanza di chiarezza che c'è in Italia, no? Le mille norme. Cioè, io sono felice che si accumulino grandi studi storici e il trarne poi le conseguenze che non si riesce a fare la politica. Che non si riesce a fare. Allora non ci fermiamo, perché come sapete andiamo avanti fino alle 9.30. Quindi Daniele da Milano, Marco da Mantova, gli ascoltatori interverranno tra poco, quando avremo ospite, tra l'altro, Filippo Facci di Libero, per la questione della libertà di opinione. È stato censurato, stato dall'ordine, sanzionato, sì. Sanzionato dall'ordine dei giornalisti. È successo anche a Radio Maria, a padre Livio Fanzai. E poi avremo il senatore Ciro Falanga sull'abusivismo edilizio. Il caso di Eboli. Il caso di Eboli del pensiero. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. È da molti anni che sentiamo parlare di spending review, di revisione e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, sia quelle centrali sia quelle periferiche. Ma che cosa è davvero successo in questi anni? Al di là degli annunci, la spending review ha funzionato? Lo Stato spende davvero meno e meglio le proprie risorse? Il governo non ha dubbi e nella prima relazione sulla spending review presentata ieri alla Camera, Göran Gutkel, che è il commissario straordinario alla revisione della spesa, ha snocciolato tutti i numeri che testimoniano i buoni risultati di questi anni. Dal 2014 sono stati realizzati risparmi per quasi 30 miliardi di euro. Nel 2018 si potrebbe arrivare a quota 31 miliardi e mezzo. Significa che al netto della spesa per personale la riduzione della spesa ha toccato il 18% delle spese correnti. Numeri, questo lo ha detto il ministro Padoan, che smentiscono chi sostiene che in Italia la spending non sia stata fatta o sia stata fatta male, il che probabilmente è vero, ma forse è anche vero che si deve fare meglio e si deve fare di più. Abbiamo una spesa pubblica che a fine 2016 valeva 830 miliardi di euro. La spesa va tagliata, ma è necessario trovare spazi e modalità per non tagliare a caso, ma per puntare sugli sprechi e sulle inefficienze delle amministrazioni, a maggior ragione perché è proprio dalla spending review che devono arrivare almeno in parte le risorse necessarie per ridurre le tasse e avviare il risanamento dei conti pubblici. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E allora vedi Oscar che siamo ancora qui alle 9.05 minuti. Sono stati premiati anche per la pazienza i nostri ascoltatori. Eccoci qua, c'è Carlo da Pordenone che è con noi. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi e buon lavoro intanto. Grazie a lei. Grazie. Ci dica. Ma ho sentito prima tutta una disquisizione sulla legislazione d'emergenza. Io mi trovo a constatare che i mass media parlano molto poco di quella che è stata sia l'esperienza del Friuli che la legislazione di emergenza del Friuli. E grazie al fatto che questa regione era ed è una regione a statuto speciale, abbiamo potuto ricostruire completamente in pochi anni. Sì. Sì, in Friuli è andata così, Carlo. Perché i sindaci sono stati nominati funzionari delegati dalla regione, perché la regione ha organizzato tutta una struttura tecnica che svolgesse velocemente tutti gli adempimenti che doveva svolgere e non ci sono stati problemi con la legislazione nazionale, con tutte quelle pastoie che si verificano e si sono verificate in altri casi. Ah, beh, è chiaro. Cioè... Però vede, lei ha ricordato correttamente il motivo per cui non è neanche giusto ricordarla più troppo. Bisogna ricordarla storicamente come un buon esempio da seguire. Però lei l'ha ricordato perché quella è una regione a statuto speciale. Le quattro regioni in cui insistono i 151 comuni del cratere sono, ohimè, invece a stato ordinario, quindi Roma non si frena, anzi. Sì, e poi c'è il problema appunto che sono quattro regioni, un cratere mai così vasto, e quindi questa centralizzazione e poi il mancato decentramento che crea, com'è che dicevi ieri, una sbagliata, cioè una troppa centralizzazione. Noi abbiamo praticamente gli svantaggi sia della centralizzazione che del decentramento, senza avere i vantaggi dell'aver scelto coerentemente un modello o l'altro. Perché è un decentramento, esatto, è un decentramento farlocco, un decentramento finto. Comunque Carlo, la ringraziamo, andiamo a Roma da Antonino. Buongiorno Antonino. Sì, buongiorno. Io mi ero un attimo irritato prima quando ho sentito l'ascoltatore che non crede al fatto che in Italia c'è un'evasione dovuta all'elevato tasso di evasione e al pessimo servizio che riceviamo su tutto. Cioè, basta avere una semplice attività, una qualsiasi attività, per capire che comunque ci si muova, si pagano tasse da tutti i lati, da tutti i versi. Per cui volevo sostenere la sua tesi, Giannino, che è così, c'è un tentativo, oppressione dell'iniziativa privata, e le tasse elevate non fanno altro che creare questa oppressione. Io per anni, da giovane, ventenne, andavo in giro, qualsiasi cosa compravo, chiedevo lo scontrino, come dire, con una tale fervore, no? Dice, no, le tasse sono giuste, e sono giuste le tasse, perché se non ci fossero le tasse lo Stato non andrebbe avanti. Ma l'oppressione che viviamo in Italia, basta fare un atto, qualsiasi atto uno fa, subito ha un controllo sull'app. Allora, insomma, quindi lei è della teoria Giannino, diciamo così. Vedi Oscar, però qualcuno ci scrive, sai, 40 anni fa le tasse erano la metà di adesso e la gente evadeva ancora di più. Quindi raddoppiamo ogni 20 anni, no, evidentemente per è per dire che una certa propensione degli italiani a evadere, no, c'è, cioè, no, guardate in termini comparati, voi dimenticate quanto ampio è il nero negli altri paesi europei, perché ovviamente invece qui l'interesse è di dirvi solo che siete voi le pecore nere. Comunque è una battaglia, il nero c'è ovunque. Io l'idea che antropologicamente un po' l'idea è se posso rubo c'è negli italiani. Allora, però perdonami. Io adesso, scusami, io non credo che tu sia convinto davvero che abbiamo un patrimonio genetico deviante. No, ma non è questione genetica. Ecco. Allora, qual è la questione? Magari, nel lungo periodo, genetico, come culturale. Insegna, adesso per esempio, io sono un seguace di alcune scuole di pensiero, no? Una è Public Choice, James Buchanan, ma l'altra è la scuola istituzionale, Douglas Stone. Cosa ci insegna? Che le istituzioni contano. Certo, in Italia per secoli abbiamo avuto cattivi esempi dall'alto. Su questo non c'è dubbio. Allora, il problema è che questa roba resta un po' nell'imprinting, ma non è genetico, culturale, non è antropologico, è culturale e storico, avendo visto che appunto tutti rubano, abbiamo avuto classi dirigenti ladre proprio da quando c'erano gli staterelli fino allo scandalo della banca romana, e molto spesso ladre, e magari scandalo che non banche hanno venete pagato oggi, scandalo delle banche venete oggi, in cui grandi manager bancari hanno avuto i grandi industriali di un'intera regione da coprire di soldi, quindi è un problema di classi dirigenti, non di italiani. Però ovviamente capisco che ne continueremo a discutere. Poi si riverbera sul comportamento alla degli fine italiani, certo, perché gli italiani dicono sopra rubano, allora. Esatto, rubo anch'io sotto. Questo è la questione, che quindi non è genetica, ma è culturale, storica. Comunque, con noi oggi c'è il titolo di Libero, Zittita Radio Maria. Quando io ho visto questa cosa ho detto: ma come? Zittita Radio Maria? Milioni tu hai di... pensato si liberano le frequenze, perché spesso sono sovrapposte, no? Ti hai pensato subito a questo. Zittita Radio Maria, ma non è vero che zittita Radio Maria, uno accende su Radio Maria e la sente virgola, e come no, ma Libero racconta questa vicenda, che peraltro è di qualche mese fa, per cui si racconta che anche Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, è stato sanzionato dall'ordine dei giornalisti in quanto ha detto delle cose abbastanza dure nei confronti di Monica Cirinnà, senatrice che è anche ora per le adozioni per le coppie omosessuali. Vuoi sentire cosa ha detto Don Livio Fanzaga? Sentiamo l'equilibrio proverbiale. Don Livio Fanzaga, Monica Cirinnà, lei questa qui che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Questo ha detto padre di Fanzaga. Non certo, è un mo me lo segno. Sì. No? Non certo. Ora piacevole, dico in alto di prendere la pratica e di portarla da sotto la pila in cima alla pila. Però insomma Libero mette in prima pagina questo, anche perché è un giornalista di Libero, che è Filippo Facci, che è con noi. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui. Anche tu sei stato sospeso, vediamo se non sbagliamo tecnicamente, perché all'ordine c'è la censura, la radiazione, ci sono varie... Sospeso. L'ammonimento. Sospeso è giusto? Sospeso dall'ordine. La ramanzina. No, non c'è la ramanzina. No, la ramanzina. No. Comunque Filippo Facci è stato sospeso dall'ordine per avere scritto un articolo qualche tempo fa, un anno fa, vabbè, ma si sa, quelle sono le procedure un po' a rilento. Il sunto di quest'articolo, io ricordo di averlo letto in rassegna stampa, era odio l'Islam, proprio odio, sì. Il diritto a odiare l'Islam, parlavi dei marciapiedi pieni dei loro culi, piedi che puzzano, insomma il diritto, la libertà di poter odiare. Sei stato sanzionato per questo. E c'è tutto un dibattito sul diritto al poter esprimere la propria opinione, seppure un'opinione forte, come in questo caso. Sì. Anzi, sottolineo anche adesso che dobbiamo stare attenti a non confondere i due piani. I due piani sono quelli del merito, cioè di quello che ho scritto, sì, oppure del diritto di poterlo esprimere. Sono due cose molto diverse che purtroppo non tutti hanno colto, anzi pochi hanno colto, anche persone assennate, perché io non la maggior parte di quelli che si sono scannati contro di me per giustificare questo provvedimento hanno cominciato a discutere di Islam, mentre il punto, come ha detto, ecco, è stato perfetto Enrico Mentana su questo, perché a un certo punto ha scritto: dunque scopro che ha più o meno l'ordine dei giornalisti ha sospeso Facci per qualcosa che ha scritto. Qualsiasi cosa fosse, politica, terrorismo, economia, era una sua opinione. Non voglio neanche sapere cosa abbia scritto, perché la libertà vale per tutte le opinioni. Io non voglio avere a che fare con gente che sanziona le opinioni degli altri, come appunto invece è successo a questo consiglio di disciplina dell'ordine, che ha scritto una sentenza che, è questo il problema, è enorme, è pericolosa ed enorme. Pericoloso nome perché lede il diritto alla libertà di espressione, questo vuoi dire? Ma proprio perché è scritta da una persona ignorante, in senso stretto, e non è che temo che appunto la ignori proprio scolasticamente, perché io, se volete, per sommi capi vi dico che cosa vuol dire, che cosa c'è scritto, perché molti non l'hanno vista, ovviamente. Io l'ho messa su Facebook questa sentenza, poi non so se vi interessi, sì. Se volete ve la dico. Insomma, diciamola in sintesi, perché immagino che la sentenza sia un po' lunga. Ribadiamo anzitutto, perché non è che mi voglio nascondere, che io ho scritto un articolo durissimo, lo ammetto, un'invettiva, che iniziava così: odio l'Islam. Sì. Proprio, cioè, no, tutti gli Islam, non c'era il discorso quello cattivo, quello moderato, quello... Sì, per andare avanti, c'era... odio la loro religione più schifosa di tutte le altre, odio il loro odio. Magari non vi interessa, ma il punto è che io detesto e considero false e dannose tutte le religioni, come facevano i razionalisti inglesi del Novecento, e a un certo punto mi sono accorto, dopo una quindicina d'anni che, come molti di noi, ci siamo ritrovati a scrivere comunque dell'argomento Islam, non si poteva più letteralmente scrivere e criticare l'Islam senza fare tutta una serie di postille, premesse, divisioni, tutta una serie di cose, per cui a un certo punto mi sono detto: no, adesso basta, mi vorrei riprendermi il mio diritto di parola per almeno una volta attraverso un'invettiva che se vogliamo non ha niente a che vedere con tutto ciò che ho scritto in passato e forse avrei scritto in futuro, perché io non sono un invasato. E ho scritto che detesto in tutte le sue forme, e ho detto a grandissime linee che rappresenta tutto ciò che la nostra identità, quale che sia, perché neanche su questo io voglio mettermi a discutere, cosa siamo, russeriani, cattolici, tutto quello che volete. Cioè, però non siamo no, è semplicemente qualsiasi cosa siamo, ci abbiamo messo secoli, ed è la progressiva il progressivo abbattimento di tutto ciò che invece l'Islam lavora per reinstaurare. Non ci sono cazzi, è così. Dopodiché, quindi ho detto che insomma io non voglio avere il problema dell'Islam, cioè voglio essere io il problema dell'Islam se gli islamici vengono sì, qua. Sì, sì. Vabbè, hai usato dei toni un po'. Io ho usato belli chiari, sì, eccetera, sì, eccetera. Beh, belli chiari. Hai definito anche il Corano un libro di M. Sì, cioè, esattamente. L'ho definito così, un libraccio. Peggior. Su questo c'è bellissima la sentenza a cui adesso però arrivo, perché sennò non mi tengo tutto il giorno al telefono. Vabbè, la sentenza inizia già dicendo una cosa enorme che ti dà l'idea del livello culturale di chi l'ha scritta. Praticamente dice: scusa, no, perché non me lo sono, lo sono segnato. Allora, Facci ha respinto con fermezza l'accusa di razzismo. Questa è la premessa che solitamente accompagna tutte le affermazioni di carattere razzista. Cioè, come dire, che se uno va in tribunale, no, e si dice innocente, è il primo indizio di colpevolezza. Cioè, ecco, uno che inizia così, tu già hai voglia di proseguire. Ma infatti, la motivazione qual è per la censura? Il razzismo? Non si capisce, perché all'inizio cita vagamente la legge Mancini. Che tra l'altro e quindi incitamento all'odio razziale, no. Perché poi la dimenticano. Vagamente cominciano a dire che le mie affermazioni sono razziste e xenofobe, anche qua, ragazzi, ascoltatori, italiani, rimpossessatevi delle parole. La parola razzismo vuol dire una cosa precisa, non vuol dire un'altra. Esatto. Non si può essere razzisti con una religione che contiene tutte le razze. Esatto. Cioè, punto, non è razzismo, fine. E poi a un certo punto, laddove la sentenza si rende perfettamente conto che in sostanza io esprimo delle idee, perché io non me la prendo con nessuna persona singola, dice: la parte peggiore è proprio quella che riguarda le idee e che consiste in un attacco, in un'offesa a un intero sistema culturale. Cioè, quindi io ho offeso un sistema culturale, quindi non so, di ripendio islamico, che è un reato che non c'è, almeno credo io sappia. Facci offende una religione, un intero sistema di valori, non può non rilevarsi che per l'Islam il Corano ha un valore diverso da quello che per le altre religioni. Uno che è musulmano e segue il Corano un po' si sarà sentito offeso a leggere che è un libro di M. Però il problema I problemi suoi, c'è una sentenza dell'Ordine dei giornalisti che dice che il Corano si può offendere di meno degli altri libri, perché dice il Corano ha un valore diverso da quello che per le altre religioni rivelate hanno i libri sacri. Capito? Il Corano non si può offendere, gli altri libri forse per questo noi paghiamo la quota dell'Ordine dei giornalisti e della sua commissione di disciplina. Ma io non ho capito, del genere umano. Ma scusa, sospeso cosa vuol dire? Perché prendo oggi il libro libero e scrivi in prima pagina. Io scrivo perché ho 30 giorni per fare appello, è l'unico, come dire, altro livello possibile, e dentro 6 mesi si definisce. Se fra 6 mesi confermassero, per esempio, la sentenza, io sto 2 mesi senza scrivere, ma soprattutto senza prendere stipendio. Posso fare il melodrammatico, dire una cosa, dire un ricatto emotivo, però è vero. Cioè, la cosa che mi fa girare, mi indispone assai, è che mi è arrivata la notizia nel giorno in cui mi nasceva una figlia. Quindi io non riuscirò a levare dalla mia memoria, per associazione, che una signora, uno strano organismo dell'Ordine dei giornalisti ha ritenuto di dovermi privare per 2 mesi dello stipendio, quindi ufficialmente del sistema di sostentamento della mia famiglia, per secondo dei criteri ridicoli e anticostituzionali e contro l'articolo 21 che spiega che in Italia c'è la libertà dell'espressione. Vi prego, diteglielo voi. Va bene, noi provvederemo. Tanto Filippo ti ringraziamo, Filippo Facci. No, perché sia chiaro, io non ho aggiunto parola perché sono totalmente d'accordo con ogni parola sostenuta da Filippo. Ma no, considero in realtà uno schifo, lo dico proprio brutalmente, cari amici dell'ordine, che voi confondiate il vostro ruolo con quello di una pantomima dell'Inquisizione, tant'è che il sistema contro il quale il problema è che non è che hai offeso lì, hai offeso il politicamente corretto di cui quella commissione si ritiene il tutore, il difensore, applicando sanzioni. Fate ridere, cari autorevolissimi, molto più di me, colleghi titolati, ridere, sganasciare, ma siete anche penosi. Questo è il punto. Comunque insomma, la libertà di espressione è soprattutto, anche se sono appunto, ed è un articolo, un editoriale che Filippo Facci ha messo su Facebook, certo, durissimo, ma è certo, è un'opinione, un'opinione. Intanto lo ringraziamo Filippo, ci sentiamo più avanti e vediamo, magari poi dopo non ci sarà un ravvedimento. Voglio l'opinione di Milan un po' più chiara, perché non è che ha lasciato lì da solo Giannino a buttarsi da... che sono totalmente d'accordo col fatto che sia una decisione sbagliata, quella di censurare le opinioni. Sbagliata. Va bene. Te lo dico poi privatamente, lo metto anche anche su Facebook, ed è la libertà di opinione. Viva Filippo Facci, viva padre Livio Fanzaga, anche se uno non è d'accordo con quello che scrivi, se non ci associ meglio, ma anche in questo sono d'accordo con Filippo. Va bene. Allora, grazie a Filippo Facci, alla prossima. Però vogliamo chiamare anche in causa per un altro tema, sai che noi ci occupiamo spesso dell'abusivismo, caro Oscar, ecco, che è una piaga italiana, e su questo sarà d'accordo con noi anche il senatore Ciro Falanga del gruppo ALA, che è con noi. Senatore, buongiorno. Buongiorno a loro. Buongiorno. Però c'è stata questa vicenda di Eboli che due giorni fa ci ha un po' interrogato, Oscar, cioè questo uomo di 67 anni che nel vedere le ruspe ad abbattere la unica casa che aveva abusiva e dunque per legge da abbattere, insomma, è stato colto da infarto ed è morto. Lei, senatore, che ha detto mi dimetto, e ha conferma, cioè si dimette dal Senato se non passa la sua legge, lo fa o non lo fa? Perché ormai siamo a fine legislatura, che fa? Io l'ho già fatto ieri mattina, ho presentato la lettera di dimissioni dal Senato al presidente Grasso. Però adesso va approvata, come sa meglio di noi, dal Senato, va votata. Certo, però anche sono stati i colleghi ad accettare le mie dimissioni, a meno che giovedì prossimo, cioè domani, in Commissione Giustizia non ci sia un cambio di rotta da parte di qualche forza politica che non ha voluto aderire alla deliberante, alla richiesta di deliberante, considerato che la modifica che noi abbiamo apportato al Senato è solo su questa, la Camera dei Deputati può ulteriormente intervenire, attiene semplicemente alla eliminazione dell'anno 2016 dallo stanziamento del fondo che è triennale, che è previsto. Sì. Cioè non è possibile più toccare il testo che ha avuto già le due letture di Camera e di Senato. Per cui l'unica possibilità che c'è è quella di intervenire su quella modifica che noi abbiamo fatto. Cioè lei vuole far approvare una proposta di legge che lei ha fatto. Che, secondo questa proposta di legge, questa casa sarebbe stata abbattuta? Direi proprio di no. E come perché mai? È abusiva. Le spiego perché. È abusiva. Spiego... Certo, ma vida, il punto non è, e la mia battaglia, non è nel affermare che le case abusive non si abbattano. Io sono un avvocato, sono un uomo delle istituzioni e ritengo che le sentenze si eseguano, e su questo non c'è alcun dubbio. Però, se io ho una casa di un camorrista che se l'è costruita con proventi indubbiamente illeciti, ed ho la casa di un muratore come quello che è morto ad Eboli, io credo che potendole abbattere tutte e due, le abbatto tutte e due, perché entrambe abusive. Però se ne posso abbattere una soltanto, sceglie prima è quella giusto del camorrista, che io scelga di abbattere prima quella. E no, non è chiaro, Oscar, lui è per le priorità, dare una priorità. Sì, e parliamo da sempre. Però dove come in Campania e in altre regioni è di massa, tu capisci che significa abbatterne nessuno. Cioè, però io non voglio fare l'abbattitore, dico che il senatore non se ne abbia, perché la polemica è eterna tra chi pensa che l'invocazione della clausola, la priorità sociale, eccetera, eccetera, in parte d'Italia, oimè, troppo estese, per come abbiamo fallito per decenni i politici, gli strumenti di governo urbano, territoriale, di tutela delle coste, di tutela delle parti idrogeologiche in cui non bisognava costruire, le distanze minime dai fiumi interrati e così. Ecco, in un paese così il problema delle priorità, per cui c'è sempre questa è la prima casa, no, questo è basso reddito, questo di qua, questo di là, essendo così di massa, significa che rimane di massa l'abusivismo. Cioè, capisce, senatore? Io questo mi rischio, le priorità rischiano di non far abbattere niente, poi, no? Ma questo non l'ho detto soltanto io. L'Europa, la Corte di Strasburgo ha pochi mesi fa reso una sentenza in cui ha affermato che nella esecuzione delle sentenze occorre tener conto di un bilanciamento degli interessi. Cioè, praticamente io comprendo perfettamente, ma se poi lo Stato non è in grado di organizzarsi per attuare un sacrosanto principio, a mio avviso sacrosanto, di priorità, ebbene non è che per questo possiamo danneggiare il ho capito, siccome non è stato capace il governo territoriale, tanto vale mettere il timbro e dire tutto valido. In ogni caso, senatore Falanga, però è una discussione eterna, la ringraziamo di essere qui e la rifaremo più compiutamente, magari, perché il tema dell'abusivismo rimane, non è che scompare adesso alle 9.27 quando finiamo noi. Figurati. Dai, ci ritroviamo domani. Viva la Guardia di Finanza! È il suo compleanno.